Ma io aggiungo una cosa, poi magari Domenico, se vuoi dire. No, la cosa che mi veniva è, rispetto a sta cosa, rispetto alle cose che ci raccontava bene Dario e che anche noi in qualche modo stiamo vivendo questo fermento così, sono perfettamente d'accordo anche quello che raccontavi tu, che non mi ricordo come ti chiami. Scusa, l'ho detto, Sara Zanisi, è Come l'associazione raccontava Sara, tra l'altro appunto conosciamo anche il lavoro che hai fatto, anche alcune parti video le abbiamo viste. È vero questa cosa qua, l'unica cosa che ci tengo a sottolineare, perché mi scatta la bolla ancora, è il fatto che ultimamente ho sentito anche Formigoni parlare di agricoltura, di filiera zero e filiera diretta, quindi cioè, stiamo attenti a questa cosa qua, nel senso che è chiaro che cerco di trattenere la bolla, ma mi scatta, ragazzi. Con l'Expo 2015 è ovvio che si parla tanto di agricoltura, di filiera, di nutriamo il pianeta e soldi che girano e progetti farlocchi. Cioè, noi, sta roba non l'abbiamo mai fatta e ci siamo occupati di agricoltura, abbiamo sviluppato progettualità, economia, senza bisogno di finanziamenti e senza buttare via soldi pubblici e i nostri soldi. Quindi questa cosa qua io ci metterei attenzione, molta attenzione, nel senso che comunque questo non svilupperà sicuramente progettualità. Altre cose ci sono in giro per l'Italia, ci sono progetti seri. Facciamo attenzione a questa cosa qua, perché sennò non è bello, non so come dire, quindi niente. L'ultima bolla che mi è scattata è questa. Lascio la parola a Domenico Finiguerra. Ma dunque, io non vorrei fare nessuna conclusione, più che altro darei un paio di informazioni e così, un auspicio che mi viene ascoltando queste continue bolle di Paolo sull'Expo. Allora, io penso che noi, se vinceremo le elezioni, l'Expo 2015 lo faremo ad Abetegrasso. Faremo l'Alter Expo, ve lo dico in dialetto, siccome molti dicono che io non sia di Abete, io abito ad Abetegrasso, no? Questo soltanto per, molti dicono che io non abito ad Abetegrasso da 23 anni, e faremo l'Alter Expo, l'Expo 2015 è quello vero, se vinceremo le elezioni parleremo di agricoltura ad Abetegrasso, a partire dagli agricoltori, a partire dai cittadini che non dobbiamo più chiamare consumatori, ma dobbiamo chiamare portatori di diritti. Dobbiamo passare, dobbiamo fare uno scatto mentale, tutti quanti, tutti insieme. Noi non siamo consumatori, noi siamo portatori di diritti. E i diritti non si comprano, i diritti si acquisiscono talvolta anche con il voto. Detto questo, non vuole essere uno spot elettorale, però siamo sotto elezioni. Due informazioni, due comunicazioni. La prima, siccome siamo l'unica forza cittadina che si presenta alle elezioni che non gode di nessun contributo pubblico, noi non abbiamo nessun finanziamento pubblico, ci autofinanziamo e ci stanno aiutando moltissimo i cittadini di Abetegrasso in questa campagna elettorale. Il 15 di marzo ci sarà una cena di autofinanziamento alla Cascina Caremma da Gabriele Corti e quindi si può inviare una mail o già iscriversi al banchetto per venire a mangiare insieme a noi il 15 di marzo. Invece, siccome parleremo insieme domenica scorsa abbiamo fatto il primo aperitivo, il secondo aperitivo abbiamo parlato di urbanistica e di agricoltura. Stasera parliamo di agricoltura, domenica prossima parleremo di mobilità. Ci sarà il resoconto del tavolo di lavoro che si è occupato della mobilità e quindi l'appuntamento è a partire dalle 16. Laura, sei in sala, mi confermi, giusto? A partire dalle 16 al Circolo dei Contadini in Vicolo Cortazza ci saranno gli approfondimenti di quello che è emerso dal tavolo mobilità e poi una merenda, un aperitivo, ci sarà pane e Nutella, ci saranno biciclette, ci saranno mezzi alternativi di locomozione perché il titolo è Senza auto è meglio. Io vi ringrazio molto, spero che la serata sia stata di reciproca utilità per tutti noi, per me sicuramente moltissimo, per il gruppo Cambio Abetegrasso altrettanto e credo che anche per la città da qui ci sia il punto zero da cui partire per una nuova Abetegrasso ed una nuova agricoltura. Grazie.